vedo in braccio una chitarra e canti canzoni tristi. Hai i capelli corti e il fascino di noi artisti. Sei bellissima, sei intelligente, fai slalom fra citazioni colte e frasi imperfette pendi dalle mie labbra e non mi prendi per matto, sei l'unica a farlo in parole povere. Io per te sono come Socrate, ci rispettiamo come fantozzepina. Io sono il re, tu la mia regina, ma tu non esisti, ma tu non ci sei, ma tu non esisti, ma tu non ci sei. Sei solo frutto della mia fantasia, sei solo frutto della mia fantasia. Sei reale come un romanzo di Asimov, sei viva ma in un mondo fantastico, sei viva in quel che scrivo, sei viva in qualche libro. Sei viva ma non ti si vede, sei viva ma non ci si crede, che ti ho creata io, che non sono mica Dio. Non è mica il mio lavoro creare le persone, io so a malapena comporre una canzone. Il tempo passa, io continuo a immaginare il mio habitat naturale e l'irreale. Ma tu non esisti, ma tu non ci sei, ma tu non esisti, ma tu non ci sei. Sei solo frutto della mia fantasia, sei solo frutto della mia fantasia. Sei solo frutto della mia fantasia, sei solo frutto della mia fantasia.